la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Due 57 minuti primi, le frequenze quelle di Radio Onda Rossa, ovvero sia 87 e 9 della banda romana e laziale. Alla fine ci siamo rabbattati, abbiamo ricostruito tutto. Succede alle volte di dimenticare il la scarcerando a casa, la scarcerando del 2021, quella vecchia, dove come saprete tutti e tutte, anzi non lo sapete sicuramente, però qualche volta l'abbiamo confessato, sulle pagine della scarceranda segniamo gli appunti per ogni trasmissione, perché uno, la memoria ci fa difetto ormai, due, siamo abituati così, insomma è un modo di fare, tre, perché ci piace di utilizzarla in questo modo e conservare quindi una memoria in qualche maniera. Delle puntate di Next Time prima e di 25 O'Clock più tardi. Dal 1999, da quando c'è la scarceranda, avete sentito gli spot che indicano e raccontano che è uscita la nuova scarceranda. Sono degli spot che ci hanno fatto dei compagni musicisti, suonatori, musici come meglio credono, hip hoppers, rapper, quel che volete o come vi, a come gli piace di più. Scarceranda 2022, che trovate qua in radio, trovate nelle varie iniziative di presentazione che facciamo in giro per la città e talvolta anche fuori. www.onderossa.info è il sito, andando su Scarceranda troverete la pagina con indicate anche i luoghi, i posti dove poter trovare la Scarceranda e le presentazioni che abbiamo in programma. www.onderossa.info, sempre, dove trovate i podcast della, le parti più salienti della programmazione di Radio Onda Rossa, le trasmissioni, le corrispondenze, i redazionali, le rassegne stampa. www.ondarossa.info, dove troverete ancora, andando a cliccare su Sostieni, le modalità per sostenere questa emittente che, come sapete, nel 1977 vive senza padroni politici, anzi senza padrini politici, senza padroni, se non l'autogestione, che è fatta anche con voi, con le vostre proposte, con le vostre iniziative, con le vostre critiche e con le vostre lodi, con le vostre partecipazioni in diretta. Questa è la modalità Radio Onda Rossa. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 85, Roma San Lollo. Per sostenere economicamente questa emittente, ancora ancora, se volete comunicare con la radio, oltre a ovviamente i social, di cui non diamo menzione, c'è anche la vecchia buona casella di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Un'altra casella di posta elettronica che, se vi volete, se volete utilizzare, serve per contattare il sottoscritto, proporgli le vostre musiche o insultarci, 25 o'clock 25 scritti al numero @ondarossa.info. E ovviamente lo 06491750, puntata pre-natalizia, puntata del solstizio d'inverno, puntata cattiva. Di pura cattiveria. Sì, poi ve lo rimandiamo, dai, da capo. Dicevamo, dovevamo un po' ricostruire tutto. Non ci ricordiamo se a casa avevamo previsto questa traccia, di cui comunque, se troverete le annotazioni sul podcast di tutta la trasmissione, anche perché, come da un po' di tempo a questa parte, se non abbiamo ospiti in studio, noi la finiamo qui di parlare e ci risentiamo poi alla fine, quando presenteremo, ve lo diciamo sin da subito, un paio di tracce tratte dal nuovo disco di Pat. Pat, con cui stiamo cercando di organizzare una presentazione e farlo calare qui da queste parti e cercare di farlo in maniera tale che possa presentare in più occasioni durante lo stesso giorno il suo lavoro. Essenzialmente qui a Radio Sonar, ma vedremo anche di aggiungere, magari riuscirà anche a raggiungere altre occasioni, forse per i primi di gennaio. Dicevamo, parleremo poco, faremo parlare degli spezzoni al solito fra una traccia e l'altra. Noi vi diciamo da capo, questa è musica per quelli che andavano con i camicioni a quadri, blue jeans calati, e un po' sarà il tenore di tutta la scaletta di questa sera. Quindi da capo, Screaming Trees. Questo è Butterfly. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Dai. Ci risentiamo alla fine. Sunshine, the sunshine bright. anzi no, qua no, qua c'era come un buco. Strano sto fatto, non mi pare. È regolare, se lo sono mangiati i pesci. Sì, mo a fiume ci sono pure i pirates. Abbassa. Arrivata! E chiudi qua la finestra che fa via la corrente a tutti! Ciao bimba. We'll be right back. Come hai fatto a trovarmi? Io sono io. Che ci fai qui? Che ci faccio? Beh, un attimo fa suonavo il flauto. In questo momento sto guardando la sposa più bella che i miei stanchi occhi abbiano mai visto. Perché sei qui? Un ultimo sguardo. Oggi farai il bravo. Non ho mai fatto il bravo in tutta la mia vita. Ma farò del mio meglio per essere dolce. Te l'ho sempre detto che quello dolce è il tuo lato migliore. Forse è per questo che tu sei l'unica ad averlo visto. Hai un cucciolo da sfornare? Sono un po' incinta. Santo cielo. A quanto pare il tuo giovanottone non ama perdere tempo, non è vero? L'hai visto, Tommy? È quello grosso in smoking? Sì. Allora l'ho visto. Chi gliel'ha fatta la tinta? Avevi promesso di fare il bravo. No, ho detto farò del mio meglio. Questa non è affatto una promessa. Ma hai ragione. E il tuo giovanotto cosa fa nella vita? Ha un negozio di dischi usati qui a El Paso. Ah, un amante della musica. Va pazzo per la musica. Come tutti. E tu che lavoro fai? Come sbarchi il lunario? Lavoro al negozio di dischi. Ah, su. Questo spiega molte cose. E ti piace? Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo. Per mia figlia sarà l'ambiente giusto in cui crescere. Invece di andare in giro per il mondo, uccidere uomini e farsi pagare grandi somme di denaro. Precisamente. Beh, mia vecchia amica, a ognuno il suo. Comunque, a parte il ruolo di terzo incomodo, non vedo l'ora di conoscere il tuo giovanotto. Sono piuttosto curioso di sapere chi sposa la mia ragazza. Vuoi restare al matrimonio? Solo se posso sedermi nel lato della sposa. Sarai un po' triste solo nel mio lato. Il tuo lato è sempre stato un po' triste solo. Ma non mi metterei da nessun'altra parte. Ma soprattutto non avrei fatto la valuta del Caimano, perché tutti... Peace. Ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rhodesia dentro quella palude. Tutti, pure i sassi. Ma fammi capire, che ti è successo in Rhodesia? Che noi sappiamo manco dove. Un ponte di liane alto 40 metri, va bene? Sotto una palude che faceva schifo, marone, piena zeppa di barracuda, caimani, coccodrilli, piranas, tutto, anaconde. Sottolineo, l'anaconda è un animale che c'ha una capoccia grossa così. A un certo punto arriva il momento di fare la scena. Il regista chiama l'attore americano, va bene? Arriva, monta sul ponte, dice oddio mi gira la testa, via se ne va. Dice chiamata la controfigura inglese, arriva la controfigura inglese, dice oddio mi viene i brividi e se ne va. Vede il regista che sbianca, disperato. Che fa? Dice aiutatemi, qualcuno ci si deve buttare. Io mo guardo, gli ho detto. No, ma va, batti il giacca, va. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Fammi finire, fammi. E aspetta un momento. Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice. Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente il tronco gelatinoso mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi. Un'anaconda che diventa una contraerea. Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro. Ma che c'avevi? Due pneumatici a posto dei polmoni? Respiravo con una cannuccia di bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo. Pensa come ti buttava il piatto. Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia? Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come te la spiego? Dai, come te la spiego? Come te la spiego? Dai, scusa, che cazzo lo dico? Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che incontro coglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari a stare notturni, che ne so, ai 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho spettrata. Spider Woman, Spider Woman, I won't fall into your web. Spider Woman, Spider Girl, so catch me if you can. Spider Woman, Spider Woman, I won't fall into your web. Spider Woman, Spider Girl, so catch me. Thank you. Perquisisci la torre. Ha sempre qualche lama da qualche parte. Non credo che le piaccia essere toccata. Sera non mi trovo a passare per Ponte Vibio, no? A un certo punto da lontano ti vedo che arriva un ragazzo mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no? A un certo punto questo con lo zompo monta sul parapetto e comincia a urlare delle frasi che non si capiva un cazzo. Ti credo, era cinese. A un certo punto questo con lo zompo si butta di sotto, no? Tutta la gente, ti aiuto, salvatelo, usata, chiamata la fluviale. Dico, ma chi chiamata? Dico, questo tempo 20 secondi e va giù. Dico, che non lo sapete che sto fiume è pieno di risucchi. 15 secondi, aiuto giù a piombo, così, ad avete. A voi a cercarlo che i torcioni, i pinni, le maschere, mica hanno ripescato. Lo sai quando hanno ripescato? 20 giorni dopo, io ci stavo, ad avete come ha ridotto proprio. Tutto quanto gonfio proprio come un pneumaticone, come una camera d'aria. Tutto il verde, il muschio che gli sarà formato qua, qua, qua, qua. Anzi no, qua no, qua c'era come un buco. Strano sto fatto, non mi pare. È regolare, se lo sono mangiati i pesci. Sì, mo a fiume ci sono pure i pirates. Mo comunque quando hanno preso, no? E per portarlo sulla banchina ha fatto un rumore stranissimo, mo, come un plof. Sai come quando ti piano una medusa e ti arrivano dietro la schiena, no? Per fare uno scherzo, uguale ha fatto questo, plof, tutta perdita d'acqua, qua, qua, qua. Orribile, proprio orribile. Devi sapere che una sera mi trovo in macchina con una, no? Una mezza sposata, una che c'è una situazione strana. We'll be right back. devi sapere che una sera mi trovo in macchina con una, no? Una mezza sposata, una che c'è una situazione strana con uno, un bel ragazzo pure lui, no? A un certo punto all'altezza di quell'incrocio ti vedo proprio un motorino proprio partì proprio in volata, no? In decollo, no? E ricaschiava proprio giù in picchiata, no? Sopra c'è stava un ragazzino. E la macchina, quella che gli ha data la botta, no? Per testa coda si è messa a girare così come una trottola. A un certo punto ti sento un botto, uno schianto. Scendo e il ragazzino proprio finito, proprio non esisteva più, cioè fisicamente era proprio disintegrato. Ma tu devi vedere la macchina come era ridotta. Ma se no, guarda, pezzuro! Ma che sai, fammi finire. Era proprio come una scatola di sardine, no? E in mezzo a ste ferraglie c'è stava, nome una donna. Lui, l'uomo, no? All'inizio si è muovato tutto quanto a schiatti, così, proprio come una marionetta. Aiuto, salvatemi, così, no? Beh, è una contrazione nervosa. Stasse, tutti i denti per terra, proprio come se fossi stata una grandinata, schizzi da sangue sull'unotto, sul cruscotto, pezzetti di cervello sul contachilometri, proprio un macello. Sembrava di proprio profondo rosso. A un certo punto esce fuori un vecchio che fa, dice, presto, dice, chiamate l'ambulanza. Dico, ma che chiama? Dico, no, vedi che questi c'erano siano 30 secondi di vita. Au, sono passati 20 secondi, sono spirati così, proprio a unisono. Mortacci loro. Non sono uno sciocco. We'll be right back. Non sono uno sciocco, non sono uno sciocco. Chiamami Iena, chiamami Iena, chiamami Iena, chiamami Iena. Non sono uno sciocco, non sono uno sciocco. Chiamami Iena, chiamami Iena, chiamami Iena, chiamami Iena. Non sono uno sciocco, non sono uno sciocco. Chiamami Iena, chiamami Iena, chiamami. Non sono uno sciocco, non sono uno sciocco. Chiamami Iena, chiamami Iena, chiamami. Non sono uno sciocco, non sono uno sciocco. Chiamami Iena, chiamami Iena. Non sono uno sciocco, non sono uno sciocco. Chiamami Iena. Tanto tempo, vero Tuco? Ogni volta che avrei dovuto usare la destra, ho pensato a te. Ma finalmente ora ti trovo nella posizione giusta. E ho avuto tutto il tempo di imparare a sparare con la sinistra. Quando si spara, non si parla. Ogni pistola ha la sua voce. E questa la conosco. Hank, seguilo. Levati la pistola e mettiti le mutande. Biondo. Ma come hai fatto a uscire da quella fogna? Sono uscito in compagnia del tuo vecchio amico Sentenza. Porco vigliacco traditore, hai parlato, eh? Usa il cervello. Se avessi parlato non sarei qui ora, no? Vuoi dire che solo tu la sai, la tua metà? Ah, biondo! Io lo sapevo che preferisci lavorare con me invece che con quel porco. Vado, lo ammazzo e torno. Ah, senti, dimenticavo un particolare. Sentenza non è solo, sono in cinque. Cinque? E tutti svelti. Per questo sei venuto da Tuco. Non fa niente, li ammazzo tutti. abbandonato nella condizione di non esser visto. Io avevo bisogno del loro aiuto e loro del mio. Ma per poterli guardare di nuovo negli occhi, dovevo dare una prova tangibile della mia fedeltà. Certe volte tutta la vita si riduce a un unico folle gesto. Dobbiamo fare una cosa. E non ti piacerà. Da quanto ho capito, Doruk è il più cattivo di tutto il cielo. Nessuno lo attacca. Piano, piccolo! Perché dovrebbe guardare in alto? Ma questa era solo una teoria. Yeah. Se per magia potessi tornare indietro nel tempo lo farei. Ma non posso. Voglio solo dirti che sono una persona diversa ora. Oh, che bello. E chi se ne frega? Non mi faccio illusioni. Lo so che non merito né la tua pietà né il tuo perdono. Tuttavia, ti supplico di averli entrambi in nome di mia figlia. Che merda. È meglio che ti fermi dove sei. Ti ho detto che non voglio ammazzarti sotto gli occhi di tua figlia, ma questo non significa che spiattellarmela davanti come stai facendo ora mi ispiri compassione. Tu e io abbiamo una faccenda in sospeso. In nessuna delle stramaledette cose che hai fatto in questi ultimi 4 anni, compresa quella di farti ingravidare, cambierà la situazione. Allora quando li chiudiamo i conti? Dipende solo da te. Quando è che preferisci morire? Domani? Oppure dopodomani? Perché non facciamo stanotte? Splendido. E dove? C'è un campo di baseball dove alleno la squadra dei piccoli a circa 1 miglio da qui. Ci vediamo lì alle 2:30 di questa notte vestite completamente di nero. Copri i capelli con una calza nera. E vediamo chi è più brava con il coltello. Non ci disturberà nessuno. Ora. Devo preparare i cereali per Nicky. Stop. Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti. Soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, la sua grafica è mediocre. Ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica. Quanto cazzo ci mette questa merda a fare effetto? Circa 2 minuti, il tempo per farmi arrivare al punto. Dunque, l'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne, l'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino, è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole. Non crede in se stesso. Ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana. Più o meno come Beatrix Kiddo è la moglie di Tommy Plimpton. Ah, so. Siamo arrivati al punto. Tu avresti indossato il costume di Arlene Plimpton, ma tu sei nata Beatrix Kiddo. E ogni mattina al tuo risveglio saresti stata Beatrix Kiddo. O poi puoi toglierla. Stai dicendo che sono un supereroe? Sto dicendo che sei un killer. Un killer per diritto di nascita. Lo sei sempre stata e lo sarai sempre. Trasferirti al Paso, lavorare in un negozio di dischi usati, andare al cinema con Tommy, collezionare punti premio, quella sei tu che cerchi di camuffarti da ape operaia. Sei tu che cerchi di mimetizzarti nell'alveare. Ma tu non sei un'ape operaia. Sei un'ape killer ribelle. E puoi bere tutta la birra che vuoi, mangiare hamburger e ingrassare il culo a dismisura, ma niente al mondo cambierà tutto questo. St. Paul, he told them all like it was him they hung out to dry. From stolen dreams are made the means to lead the souls who must abide. Then you'll never have to work again. You glide along the backs of men. who edit the witness list of souls that want to feel but need to be told. The Lone Star scar, the syrup-like tear song. The crowd was moved, I disapproved. Lowrider tummy's wrong. You're told to leave and not come back again. Fall in line, not question when. To peel off the shrink wrap right inside. Let's cheer and sing to the big lie. La conosci la storia dell'uccellino? Mio nonno me la raccontava sempre. Diventare nonni era estremamente difficile ai tempi miei. Era difficile, ragazzo, ma non impossibile. Allora, questo uccellino non sapeva ancora volare. Durante l'inverno, in una notte fredda, ruzzola giù dal nido e finisce sul sentiero. Poverino. Comincia a gridare. Come un matto, e sta per morire di freddo. Ma fortuna per lui, ecco che arriva una vacca. Lo vede e pensa di scaldarlo. E così alza la coda e splash! Una margherita bella e fumante, grossa così. L'uccellino al caldo è tutto contento. Tira fuori il capino e ricomincia. Più forte di prima. Ma un vecchio coyote lo sente e arriva di corsa. Mamma mia! Allunga una zampa e lo tira fuori dalla cacca. Lo pulisce ben benino. E poi? Se lo ingoia in un solo boccone. Il nonno diceva che la morale c'è, ma che bisogna trovarsela da soli. L'uccellino, il coyote, la margherita, beh, queste storie di merda mi fanno scoppiare la testa. Tu credi ancora alle favole, vero? E come? A proposito, ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo star caldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo, sta zitto. 32 minuti dopo la mezzanotte parte Pat dopo questa lunga scapocciata. 064 917 50, il numero di telefono di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info il sito, 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo, per sostenere la radio. Portami via. E questa è Mono Stereo, l'avevamo promesso, un paio di tracce, due, tre tracce, vediamo un po', in attesa che possiamo ufficialmente presentare il disco di Pat qua in radio, quindi da capo. Questa è Holland & Dozier e a seguire Luci della città, Pat a Onda Rossa 25 o'clock. Lei faceva un muro tra suo padre e l'eroina e diceva non poter. Storiacce di periferia. Adesso primo contratto senza la data, l'ha avuto il giorno in cui lui l'ha mollata, dalla gioia al dolore, senza smettere di piangere mai. Sopravvivo a questa, m'ha detto, posso regnare sul mondo, m'ha detto, paga sto giro, metti una scusa e portami via. Bella mia, che posso dire? Io non ho svolto per te, ma so suonare io. Ragazzi andavano in prima. Lei faceva un muro tra suo padre e l'eroina e diceva non potete fermarmi ma farmi perdere il treno. Con la radio accesa nel letto che non avrebbe dormito lo stesso. She ran away from who? Sempre la stessa canzone, la stessa stazione, lo stesso odore. Ascoltami, bella mia, che posso dire? Io non ho svolte per te, ma so suonare online and dancing. Anche tutta la notte solo per, anche tutta la notte solo per. Cielo a raccontare chi siamo ed è una fregatura, anzi, anzi, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna, è un assalto alla luna. Uscita per questo mono stereo Pat. Luci della città. Il prete nuovo non era male, dai. Lasciava aperto a tutti quanti. E dopo scuola, prima di tornare per mangiare, facciamo erba tra le statue dei santi. E la mia vita scivolò così. Cieco di rabbia come un animale. A volte mi chiedo perché ci hanno chiuso tutti qui. Che il più pulito c'ha la condizionale. E penso, mamma solo tornerà a cantare. Papà se n'è andato con Dio. E da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. È un tipo eccezionale. Prima bandito e poi rapinatore. Era il 90 quando seppellì la sua pistola. Ha costruito sto quartiere in 24 ore. La mia famiglia ebbe la casa nuova lungo la strada per il centro edile. La notte costruiscono martello e sedia senza tregua. Nella mia stanza non riesco a dormire. E penso, mamma solo tu mi di notte a bar. Papà sei andato con Dio. E da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Spinazzi che vuole andare a ballare. Ma sai com'è la vita, due pasticche, mezzo trip, io e Germano sull'Aurelia verso il mare, e mezza boccia di whisky, e si parlava di impicci, pregia negli Emirati per i cani avvelenati, vestiti giusti e intenzionati sbagliati, troppo rumore per roba da niente, non l'ho toccato nemmeno un sergente. Germano non sapeva che la bimba ha 15 anni e per difenderla mi becco 20 anni. Ma io vengo da un Vietnam di palazzi scuri, non è un arresto, questo è un trasferimento. Ogni domenica Stefani arriva in parlatorio, il suo profumo mi divora e penso, mamma, solo tu mi rinocchi al bar. Papà se ne è andato con Dio e da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Queste erano le luci della città che ci serve anche per introdurre il 31 dicembre 2021. Sì, perché pure questa è una storia di impicci e di galera. Sto dormendo in tutto il quartiere, ma il sangue. Odio il carcere, sotto il carcere. Sotto. Entro l'inverno. Sotto Re Bibbia, presidio sotto Re Bibbia, il 31 dicembre 2021 dalle 10.30 come ogni anno. Qualcosa che non va, e hanno trovato il sangue. Via Maietti, angolo via Bartolo Longo. Quando passa. 15 detenuti uccisi, torture, rivolte ai processi, il tempo non cancella la rabbia per quel marzo 2020, questa è per la pulizia. Il tema. Che ricorre in questa e sarà mia. In questo presidio del 2021. Mani così dure da graffiare i bicchieri, è il legno spaccato e sangue. Ragionda rossa, sì. Scarceranda. Promuovono appunto il presidio sotto il carcere di Re Bibbia come ogni anno. Ci saranno la lenticchiata propiziatoria, la musica. Ci saremo noi della radio, ci saranno tante strutture di Roma che danno il loro contributo per il presidio sotto Re Bibbia. Casale Alba 2, la torre. Dammi una ragione. E tanti altri che altre che non andiamo a citare. Non sfondare a calci il muro e andarmi a fanculo via da queste strade. E la tenerezza arrata. E le feste comandate. E le vergine immacolate poi brutalizzate. Prima dell'estate. Freddo Alabama, gli spaccherà il cuore. 60 euro e due negroni per tre ore buone. Sì, sì. Tony non è Elvis, ma cantare canta bene. E questa non è America, ma è una sudicia palera. Con un cartello bello grande che impara la statale. Alabama, Tennessee, venite giù a ballare. È meglio di così. Rocksteady 67 dalla Russia, Frog Legs, Sampedirana. Questa è Onda Rossa e 49 minuti dopo la mezzanotte. Le trasmissioni in diretta finiscono a questo momento. Non prima però di avervi ricordato il palinsesto che ci segue, perché le trasmissioni in diretta, dicevamo, finiscono qui, ma ci terrà compagnia nelle prossime ore la compagna automatica Sonata. Con le sue repliche, le sue programmazioni bizzarre. Si riprende alle 8 della mattina, di domani mattina o di stamattina. Con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina e redazionali della mattina fino all'incirca alle 12.30. Pausa. Poi alle 14 si riprende con la consueta trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Tutta Scena Cinema. Alle 16 Attica Blues, oltre alla Black Music, e dalle 17 alle 19 La Schiena del Sol. Con tante anche rubriche e appuntamenti interessanti. E ormai così, abbastanza periodici. Quindi finito il pomeriggio si riprende alle 20.15 con Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa. E alle 22 Cuginetti a chiudere. Di Apostasia. Speriamo di essere stati abbastanza cattivi in questo solstizio d'inverno, normalmente così pieno di politically correct e bontà. Bleh. E soprattutto tanta ipocrisia. Almeno noi tiriamo il peggio di noi stessi fuori per questi eventi. Anche se le giornate che cominciano a diventare più lunghe, il sole che comincia a guadagnare sulla luna, sulla notte. Insomma, questo è il ciclo della natura, ci dobbiamo stare. Allora, appuntamento a tutti e a tutti sotto Re Bibbia il 31 dicembre. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo in versione remoto. Molto probabilmente si tratta del 29, se non andiamo errati. 22 più 7 fa 29. Anche a quest'ora questi calcoli acrobatici. E dicevamo, ci vediamo sotto Re Bibbia, perché in questo periodo così triste, così duro ancor più per chi sta dietro le sbarre, è ancor più importante il nostro abbraccio, il nostro saluto caloroso, e anche a tutti e a tutte coloro che sono costretti a quelle altre condizioni di limitata libertà personale, oltre il carcere, come la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari. E tutti i vari decreti amministrativi. 53 minuti dopo la mezzanotte noi ci diamo un taglio. Bella a tutti e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Bella a tutti e tutte. Dreams.